Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Secondo Confcommercio, la recessione economica e il maggior peso delle imposte hanno determinato un crollo della spesa delle famiglie e delle imprese. Formiche gli italiani lo sono sempre stati e vorrebbero continuare ad esserlo anche durante la crisi, ma sono sempre meno quelli che ci riescono. Un'Italia colpita al portafoglio e che spende sempre meno in quelli che una volta erano considerati bisogni primari, come i pasti in casa, l'abbigliamento e le calzature, ma che sembra, secondo i dati dei commercianti, non voler rinunciare al tempo libero e soprattutto a internet, smartphone e tablet. Gli ultimi dati dell'Associazione dei commercianti sono foschi. A novembre i consumi sono scesi del 2,9% annuo, con una maggior diminuzione per i servizi rispetto ai beni. La crisi lascia meno soldi in tasca agli italiani e infatti oggi l'Istat ci dice che nei primi 9 mesi del 2012 il potere d'acquisto degli italiani ha registrato una flessione di oltre il 4%. Così, se consideriamo solo i consumi delle famiglie, la stima per l'anno scorso di Confcommercio è di un calo di oltre... Non sono tanto queste cifre che ci portano a riflettere sulla nostra realtà individuale, ma quanto quello che ho in mano adesso, che è la prima pagina di uno di quei giornali di Free Press che si raccattano sul sedile della metropolitana. E probabilmente quello che ho in mano io era già la quarta lettura e aveva già subito la pressione del sedere di 6 massaie, 8 filippini, 5 venditori ambulanti e 2 suonatori di fisarmonica. Eppure quello che c'è scritto è importante. Ho in mano la pagina stazzonata che vi faccio sentire, ormai ingiallita dall'abuso che ne è stato fatto in questa prima ora di uso e lettura spasmodica. Italia né carne né pesce. Allarme Banca Italia, il 65% delle famiglie non riesce a vivere con il proprio reddito. Soprattutto questo articolo parla di 2 studi, uno di Banca Italia che dà le misure della crisi dicendo che il 27% delle famiglie non è in condizione di avere l'apporto di proteine, cioè carne, uova e legumi, necessario. E c'è un altro studio che è stato fatto appunto da chi vende poi i prodotti alimentari della Conad, che dice che sembra essere tornati agli anni 50, gli anni 50 in cui la carne si mangiava una volta al giorno, il pesce era considerato un lusso, in cui le mamme, le nonne dicevano noi bambini a cui la carne faceva schifo perché non piace ai bambini normalmente la carne, la masticavamo, la buttavamo sotto il tavolo, vergognati, noi la carne quando c'era la guerra mangiavamo i topi, la carne è una cosa rarissima, si mangiava soltanto a Natale nelle feste comandate. Noi figli del boom siamo nati con questa idea che la carne fosse qualcosa di orrendo da mangiare perché non ci piaceva, però era quasi una sorta di sacrilegio. Perché? Perché avevamo genitori, mamme, nonne, zie e via dicendo, ci raccontavano i tempi foschi in cui la carne era una rarità. Oggi mangiamo la carne, era una festa, per noi invece era la peggiore iattura. Al di là di questa facezia di premessa, non posso che arrivare alla conclusione che ci troviamo esattamente in un periodo simile a questo. Ancora non viene strombazzato dai media, ancora l'attenzione è sull'aspetto fuffa esterior carnevalesco della politica, ancora sembra che ci sono un'infinità di persone che non abbiano problemi, che non abbiano pensieri, che riempiono le fantastiche copertine di giornali patinati dedicati alla vita, agli amori e alle dissoluzioni dei VIP, ma in realtà un terzo delle famiglie italiane comincia a fare i conti con la spesa di tutti i giorni. Compriamo la carne? No, aspettiamo. Non la compriamo? La compriamo quando magari ce lo potremo permettere. Corrisponde, secondo voi, questa a una realtà? Avete la sensazione che in realtà nei vostri budget familiari si cominciano a fare dei tagli, non soltanto superficiali, non soltanto legati al voluttuario, meno vacanze, meno vestiti nuovi, meno scarpe, ma chi se ne importa, abbiamo gli armadi straboccanti di vestiti, non sappiamo nemmeno, ricordiamo e sappiamo quanti abiti abbiamo, quante giacche, quante camicie, e ricordo anni in cui si sapeva, uno aveva 1 o 2 paia di scarpe, un vestito buono e un vestito per tutti i giorni. Non vorrei fare questo discorso da Umarell, però mi date l'esatta misura di quello che realmente oggi è il senso di dover stringere i cordoni della borsa? 800240024. Intanto alcune cose più banali, come andare a fare la spesa dopo mangiato. Perché? Perché è provato tramite degli studi appositi che se si va a fare la spesa prima di mangiare si viene attratti da un sacco di cibi come biscotti, patatine, salatini, dolcetti, caramelle, assolutamente superflui, E si rischia davvero di riempire il carrello di cose che in realtà non ci servirebbero, ma che fanno aumentare notevolmente il Questo è costo preso del da un servizio. canale YouTube, Tutti pazzi per la spesa, come risparmiare, che vengono messe attraverso la più moderna e più legata allo spirito contemporaneo maniera di diffondere il sapere, quello che erano consigli di una vita tristerrima e squallida, sui quali è stata articolata la nostra sventurata gioventù, nostra dico sempre ragazzi anni 50. Abbiamo vissuto questa esperienza di un'uscita ingloriosa da un momento di mestizia e un avvenire che sembrava fulgido, pieno di speranze, ma mentre oggi leggerete soltanto che l'Italia di quegli anni era l'Italia di Carosello, di Mike Buongiorno, dei consumi, come abbiamo sentito ieri, era anche l'Italia in cui gli assistenti sociali andavano a visitare famiglie che vivevano in baracche, i cui bambini si bruciavano perché rimanevano tutto il giorno da soli accanto a un fuoco. Cristina. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando, non risparmi le parole perché quelle Buongiorno, due ancora non cose costano. semplicissime. Abbiamo messo in atto per avere questo risparmio, non, più che altro io dico uno spreco. Uno spreco significa non buttare le cose che si comprano, per cui semplicemente una lista della spesa con organizzati i pasti della settimana, si compra quello che serve per cucinare quei pasti e si va a fare la spesa quello che dei due è meno attratto come Quello dire, più capace a resistere alle tentazioni. esatto, che è più risparmioso nell'intimo, per cui ci va mio marito Che è che molto non è risparmioso nell'intimo. esatto, e Lo compra so. semplicemente quello che si organizza dei pasti. Vabbè, è una Ovviamente, tristezza, è una cosa che mi viene no, la no, pelle no, no. d'oca. Non è una tristezza, perché lei può scrivere pesce, carne, verdure e sceglie quello che preferisce. Non è necessario limitarsi alla patata, alla carota. Lei può prendersi il fagiolino, la zucchina, quello che Oddio. preferisce, non senza nessun problema. E quello è quello che si cucinerà nella composizione dei pasti della settimana, quello E che se io lei vedo sceglie un quello che vuole. trionfo di affettati lussurioso, non me lo posso comprare. No, no, no, sì, quelli ci sono sempre a E disposizione, si davanti al aspettano banco al dei dolci momento. posso fare incetta. Non ne compriamo quelli, per cui non le saprei rispondere perché li cucino io e allora non è una cosa che Beh, mi oddio, con quello piace che ho molto letto fare. stamattina di torte al cioccolato, che in realtà contengono sostanze di Sì, ho sentito. omologo aspetto, ma non certo uguale soddisfazione alimentare, mi mette un po' di paura. Quindi, vabbè, quindi siamo arrivati a quello. Io, guardi, non so quanti anni abbia lei, Cristina. Ecco, 53. la mia generazione. Noi siamo stati allevati con questa tristezza, in cui bisogna chiedere il permesso per prendere qualcosa nel frigorifero. Cioè, i miei figli entrano e fanno man bassa quello che vogliono, non ci si è mai posto il problema. Finora, almeno fino a qualche tempo fa, andare a fare la spesa, boh, uno ci andava lì, comprava, riempiva il carrello, tornava a casa, non si poneva il problema, non era quello proprio il problema. Oggi, ahimè, bisogna fare i conti con una realtà che molti, moltissimi, ma sempre più persone, noi stessi, anche chi parla, comincia a farsi i conti in tasca. Pensava che questo momento, non sarebbe mai più tornato nel suo arco esistenziale, ma in realtà è così. Massimo. Pronto, buongiorno. Complimenti per la sua Ma vada al trasmissione. punto, consigli pratici e Consigli siccome pratici. siamo in quaresima e probabilmente abbiamo troppo ceduto ai piaceri della carne, questa mattina dobbiamo mortificarci. Ci dica anche lei come si risparmia. A me viene da Ma piangere una cosa. risparmiare, io parto forse dai vecchi detti delle persone più anziane. Che l'abbiamo E presa in diciamo. giro per generazioni, adesso dobbiamo andare a recuperare l'antica saggezza dei nonni sfracassagonadi che ci dicevano che bisognava risparmiare. Sì, perché io noto, sono nel settore alimentare e mi occupo, diciamo, di vendita soprattutto di prodotti molto freschi e noto che la gente purtroppo tende molto, forse è una questione di tempo, tende molto a consumare cose molto costose fondamentalmente. Così Dove... avveniva, diciamo, fino a qualche tempo fa, prima della crisi conclamata e vissuta da tutti. Sì, però la gente comunque non sta attenta, non sta, è molto distratta e questo porta a un consumismo, credo, molto più elevato. Mi faccia degli esempi concreti. Parliamo di un prodotto molto... la pasta fresca oggi come oggi, tutte le persone che girano notano che parliamo di un prodotto artigianale, ovviamente. dove si potrebbe benissimo ritagliare un'ora, due ore alla settimana e farla a casa. Ah, farsela a casa, non è una cosa semplice. La gente spende, lo so. Sono scomparse quelle signore che stendevano la sfoglia e fierissime di avere queste enormi sfoglie perfette, della stessa altezza, la stessa consistenza, però poi tagliavano e tagliavano. Ma dove le trova più, ma scusi? Però potrebbe essere una via d'uscita per ritornare, diciamo, a... Farsi la pasta a casa, le tagliatelle per la domenica, come una volta. Certo, io la vedo così, sinceramente. È un consiglio che prendiamo. Massimo da Bergamo, vedo che gli uomini danno molti consigli in quella che erano la categoria dell'economia domestica proprio delle donne, quindi in fondo questi decenni non sono passati in vano. Massimo da Bergamo. Sì, buongiorno. Sì. La ringrazio di avermi fatto intervenire. Allora, io sono io che faccio la spesa a casa. Dal 2008 spendevamo circa 700 euro in due, adesso c'è un bambino e ne spendiamo 412-415. La carne una volta al giorno, non sempre, pollo, carni bianche, che fa bene per l'amor di Dio, però quando si va dal macellaio a 27 euro al chilo i nodini di vitello non ce li possiamo più permettere, il filetto non se ne parla più. Ma è questo, io lo sto dicendo da piccolo imprenditore, che uno dice sei un piccolo imprenditore, no, non è così, perché siamo ancora più in crisi noi, che la gente non ci paga, non siamo garantiti, non siamo tutelati, siamo anche messi peggio, perché io devo fare i conti anche col fatto che probabilmente alla fine del mese non è detto che neanche abbia tutti i soldi che mi servono per poter farlo. Lei deve pagare anche gli stipendi, poi deve pagare i fornitori. Esatto, e devo tagliare i costi, assolutamente. Il mio suocero, che è un pensionato, spende più di me, che sono in due, e io con un bambino spendo meno di mio suocero, perché non ho i soldi. Quindi Massimo, lei è un piccolo imprenditore, quindi non è proprio la categoria che almeno nella lettura comune dovrebbe essere almeno nel fare più disagiate. Lei dice che nel suo ménage domestico deve cominciare a pensare a fare dei tagli, ma lo pensiamo anche noi, parlo anche del mio e cominciamo a starci tutti attenti. È una cosa che non pensavamo possibile, perché si stava attenti a non cambiare l'automobile, si stava attenti a non fare la vacanza che non ci si poteva permettere o non andare più di tanto al ristorante fuori, ma pensare a dover risparmiare sulla spesa, cercare la cosa che costa meno, era un po' fuori dall'idea generale della media classe italiana. Questa almeno è la mia idea, confermatemi o smentitemi. Monica Fabris, buongiorno. Buongiorno. Monica Fabris è una sociologa, è presidente di Episteme, che è un istituto di ricerca e consulenza strategica sul cambiamento sociale, i consumi e la comunicazione. Poi anche amica mia, Monica Fabris. Quindi ti ho fatto ascoltare, Monica, delle letture a caldo. Questa mattina ho trovato il foglio di giornale metropolitano e oggi voglio parlare di questo. Dal tuo osservatorio corrisponde a realtà che nessuno di noi si aspettava, perlomeno noi che pensavamo di aver ormai svoltato la nostra vita, dover pensare a comprare l'insalata che costa meno o la carotina un po' più storta che magari però viene data a buon prezzo. Assolutamente sì, e mi colpisce in particolare l'ultimo intervento dell'imprenditore, perché la cosa che colpisce in questo momento è proprio la trasformazione della povertà. Nuove categorie entrano in una situazione di sofferenza o perlomeno di allerta, che poi può diventare un vero e proprio allarme, e vecchie categorie che magari ci sembravano le più disagiate invece godono oggi di una relativa tranquillità. Pensiamo alla differenza tra stipendio pubblico garantito rispetto all'incertezza del lavoro privato dall'imprenditore al collaboratore. È difficile capire e identificare adesso un profilo esatto di chi è davvero in difficoltà, anche perché la povertà non è mai stata tanto studiata. E non abbiamo delle cifre chiare, perché dipende da tanti fattori di cui non tutti sono misurabili. Ad esempio, pensiamo alle famiglie d'origine: è diverso chi ha un reddito basso ma una famiglia alle spalle che lo può sostenere, piuttosto che chi ha un reddito basso non ce l'ha ed è solo. Che cosa succede allora? Che nella nostra società si stanno alzando dei muri invisibili, ma molto profondi, che distinguono la parte della società che sta subendo pesantemente la crisi o addirittura è entrata in un momento di uno stato di non sopravvivenza, e la restante parte della società. Quindi siamo in un momento di estrema diversificazione, come vediamo anche da altri aspetti, pensiamo a quello elettorale. C'è chi veramente non mangia, chi fa una difficoltà pazzesca a mantenere degli standard, diciamo, soprattutto per quanto riguarda anche proprio il tenore di vita. Torniamo all'esempio dell'imprenditore che deve anche incontrare persone, che deve anche sostenere delle spese in più. Anche non puoi farti vedere con i pantaloni stazzonati o le scarpe vecchie o la camicia lisa sul collo. Ti ricordi, Monica, quando ci sono i nostri, tu sei molto più giovane di me, però hai esperienza generazionale, mi raccomando, la camicia sempre pulita, i polsini della camicia lisi. Ma quando mai oggi più si ha una camicia con i polsi lisi? Le camicie si buttano via prima che abbiano modo di consumare i polsi. Ritorniamo a delle vecchie regole che sembravano ormai seppellite nella nostra memoria storica. Sì, e questo teoricamente potrebbe essere anche positivo, cioè c'è una parte di popolazione che però non è quella che sta peggio, che sta facendo veramente tesoro di una nuova filosofia del capire meglio i propri bisogni, discriminare meglio ciò che è necessario e ciò che è superfluo, e quindi c'è anche chi consuma di meno godendo di più, diciamo così, meno consumo e più piacere. Per alcuni è possibile, ma questo è già un privilegio per quelli che possono permettersi di fare le tagliatelle in casa. C'è anche diciamo un punto di vista culturale, che riesce culturalmente a capire che in realtà il proprio status interiore non è così indispensabile alla propria felicità, alla propria sicurezza in sé, può tranquillamente anche affrontare questo, tornare indietro, capito, downshifting del proprio tenore di vita, fregandosene. Per chi aveva basato tutta la propria esistenza sulla possibilità di poter frequentare certi locali, di poter vestirsi in certe maniere, oggi penso che sia una tragedia. Assolutamente. Assolutamente, perché l'asse dei valori, il consumo ha smesso di esercitare quel ruolo di status e di identità sociale. Noi veniamo da anni in cui la nostra identità era determinata anche dalle grif, dalle marche che indossavamo e così via. Oggi la nostra identità si esprime a livello sociale in altre forme. È vero, Monica, che in realtà le uniche aree in cui sembra che gli italiani non risparmino sono quelle delle proprie relazioni multitasking, internet e telefonia mobile. Assolutamente, perché in un momento di paura e di incertezza, che è la cifra per comprendere il nostro tempo, ciò che rassicura di più è la relazione. Per fortuna gli italiani hanno azionato questo sistema di autoprotezione, che è quello della relazione, dello stare in contatto, scambiare esperienze, scambiare competenze. Quindi, diciamo, quest'area sarà investita, e non a caso i nuovi status symbol, quelli che restano, sono proprio relativi a quest'area. Diciamo che ci si scompenserà con relazioni la cui facilità di acquisizione e di mantenimento è data dai social network, ad esempio, dagli strumenti di interconnessione attraverso la telefonia mobile, che gratificherà più mangiarsi un panino in due o trovare nuove amicizie a basso costo, piuttosto che fare quelle pantagrueliche cene in cui ci si guarda in faccia e non si ha niente da dire. Sentiamo qualche ascoltatore. Andrea, buongiorno. Sì, salute Nicoletti. Io volevo dire un altro suggerimento di risparmio. Tra l'altro è strano questa cosa, che ce ne stiamo occupando noi uomini di andare a fare la spesa. Io ne sentivo le altre telefonate, allora non sono soltanto io che sono l'incaricato. Chiamano più maschi che femmine da questo punto di vista. Allora, ascolti, c'è stato... Quando noi registriamo il dato, non è che facciamo, è così però. No, ma è interessante. Allora, quando c'è stata il problema dell'influenza aviaria, io ne ho approfittato brutalmente, ma anche d'accordo con mia moglie, abbiamo fatto incetta di carne di pollo, perché abbiamo ragionato dicendo senz'altro quella che arriva ai supermercati sarà più controllata in qualche modo di quello che c'è fuori. Infatti il fatto che poi si scoprì che era una bufala, che non era nelle forme... Quindi avevate il freezer pieno di quarti di bue e di galline. Sì, di pollo a tutto stiano, pollo. Adesso che c'è il discorso di questi famosi tortellini con la carne di cavallo, noi ci stiamo riempiendo il freezer di tortellini, perché svendono il tortellino piuttosto che la lasagna, piuttosto che noi nel dubbio, io una lasagna di marca svenduta a un terzo del prezzo che normalmente viene fuori, stiamo facendo incetta. La torta al cioccolato farcita alla cacca di cui si parla questa mattina, come risolvete questo problema? ma questo non, onestamente mi pone, mi mette in difficoltà, però ci guardi pensato. Perché mi dà un'idea, penso che l'andrò a comprare, penso che si potrò andare a comprarla, perché è difficile poi distinguere e capire data la fattispecie del prodotto. Paola, buongiorno. Finalmente una donna. Paola, complimenti per la trasmissione, la seguo molto spesso. Si diverte. E niente, anch'io ne ho risentito per via traverso, nel senso che dopo 10 anni sono stata licenziata grazie alla nuova legge. E ovviamente non è che ho potuto opporre più di tanta resistenza, perché sono di fronte a una grande multinazionale. Ha ceduto. E quindi sì, ho ceduto, abbiamo trovato un accordo, però ora mi ritrovo da un mese a casa. Fortunatamente, tra virgolette, sono sola. Però comunque rispetto a poco tempo fa, l'idea di non avere un reddito mensile e dover ottimizzare le risorse che sono uscita ad ottenere mi ha portato sicuramente a fare dei sacrifici. Mi faccio l'esempio concreto, la cosa che tu l'ha colpito. L'esempio concreto, come diceva il signore prima, anch'io ho riscoperto anche un po' la felicità, insomma, di fare la pasta in casa. Al supermercato sicuramente mi soffermo molto di più su quelle che sono le offerte, sui manifesti, insomma le locandine che mandano anche a casa, mi soffermo a vedere quelle che sono offerte della settimana. Quello che una volta uno prendeva e buttava via quando trovava la cassetta della posta insomma, piena, sì, oggi comincia a guardarci se vale la pena. E si nota anche che comunque le percentuali di sconto offerte sicuramente sono aumentate. Il 40-50% una volta magari ho fatto una volta al mese, una volta in 2 settimane, ora è perennemente presente sui banconi. Grazie, grazie. Ci fermiamo un attimo, Paola, diamo la linea alle informazioni della borsa, riprendiamo fra un istante. Melog, la realtà condivisa. Soluzione interessante di cui ho letto online sono i gruppi d'acquisto. Ovvero ci si mette insieme con molte persone, in cui magari uno ha la partita IVA, si fa una grossa lista della spesa e si fa una spesona unica. Però è comunque un modo per risparmiare molto. Per quanto riguarda invece frutta e verdura, una soluzione molto interessante di cui ho letto sono i coltivatori diretti, quindi comprarla direttamente dai coltivatori, i quali guadagnano già pochissimo quando la vendono a catene di supermercati e a grossisti. Vi stiamo citando da YouTube, tutti pazzi per la spesa, come risparmiare, questa ragazza che sta mettendo assieme una serie di stratagemmi che sembrano appartenere ai tempi dell'autarchia o ai tempi della borsa nera, di cui avevamo noi memoria, ragazze degli anni 50, e oggi diventano di stringente attualità. Quando ci raccontavano le madri e padri, andavamo alla borsa nera a comprare le patate. Si andava dai furbi contadini, che allora erano quelli che facevano grandi affari, a comprare qualcosa che non era possibile trovare nei mercati ufficiali, in tempo appunto di guerra, in cui c'era la tessera annonaria, tutto era razionato, tutto era limitato, e tutti avevano bisogno naturalmente di nutrirsi. Oggi cosa accade? Oggi accade, come abbiamo letto questa mattina, da alcuni rilevamenti sono stati fatti, che gli italiani stanno cominciando seriamente a considerare il problema del risparmio su funzioni essenziali come la spesa quotidiana. Qualcosa che sembrava non appartenere a una nostra società coltivata sul più profondo edonismo, in cui sembrava che la felicità era data dal consumo esagerato, dal consumo pantagruelico soprattutto dei beni alimentari. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Maso Masotti è diventato una sorta di profeta in questo momento. Per anni era stato considerato come l'osservatore di un reperto antropologico in via d'estinzione. Ricordo che Danilo Maso Masotti, se ci fosse bisogno, è l'autore di Umarels, un libro del 2007, edizioni Pendragon. Ultimamente Ci meritiamo tutto, ha fatto un sito, umarels.it. Era l'osservatore degli anziani pensionati che sembravano una sorta di residuo inosservato. Lui se n'è accorto che esistono. Questa mattina c'è su Chi una foto del Papa in pensione con Padre Gergo che passeggia per le pineti di Castel Gandolfo. Padre Gergo ha la classica posizione dell'Umarel e il Papa ha il berrettino da Umarel. Quindi, come vedi, la tua profezia oggi ha una attualità stringente. Sì, anzi, oserei dire che viviamo un periodo di neo-umarellismo, quindi noi dobbiamo apprendere dagli Umarell la prima cosa, ad esempio, che ci è stato stato insegnato che il nostro tempo libero doveva essere utilizzato per consumare. Invece l'Umarel, che dispone in enorme quantità di tempo libero, lui l'ultima cosa che fa è sempre stata quella di consumare. Ad esempio l'Umarel non si trova spiazzato di fronte a questi primi passi della crisi che sta arrivando. L'Umarel... Ma lui è felice che finalmente è la sua vendetta. Sì, no, ma l'Umarel, come stavi raccontando tu, già anche della tua infanzia... Perché io sono sulla strada dell'umarellismo, lo sai Danilo, è chiaro. Quando cominciano a tirare fuori i ricordi, già sei Umarel. No, ma infatti, ma però... infatti, devi dire no. L'Umarel sono, cioè, hanno un'infanzia ancora... Cioè, prima della tua, allora hanno avuto un'infanzia dove c'era una miseria... Hanno lambito la guerra gli Umarel, dai, diciamo esatto, la verità. Quindi l'Umarel però di questo periodo... conserva in sé, anche se non lo può dire, una sorta di nostalgia, come la mia generazione magari ha la nostalgia degli anni 80, altri degli anni 60, eccetera. L'Umarel ha questa anche sorta di nostalgia della miseria, nostalgia di un nemico da combattere con delle armi anche eventualmente, ecco. Ma l'Umarel che cosa fa comunque? Come consuma l'Umarel? L'Umarel per prima cosa fa delle spese essenziali, non è che va in macchina a fare la spesa. L'Umarel va a piedi, quindi c'è già un abbattimento dei consumi, fa una spesa essenziale a chilometro zero. Con quei carrellini con le rotelle che qui a Roma ormai usano soltanto i rumerini che raccattano i rifiuti nei cassonetti. Qui è molto utilizzato, allora, il carrellino è molto utilizzato dalle sdaure, dalle signore, dell'Umarel femmina. L'Umarel invece, che deve dimostrare un certo vigore, e va con i sacchetti, va con le sue, si chiamano le sportine qua, e va a piedi a fare la spesa. Poi ecco un acquisto interessante degli Umarel, perché l'Umarel non vuole comunque rinunciare a dei cibi tipo la carne di maiale, gli affettati, la salsiccia, e queste cose. Il vero Umarel, quello proprio risparmioso, così, a casa ha un'affettatrice e compra dei prosciutti a saldo, proprio il pezzo intero. Sì, questo che non costano nulla, non so perché un prosciutto intero costa pochissimo, poi non vede che c'è la fregatura dentro, sono tenuti insieme con dei pezzi di plastica, non so, una volta ne ho comperato uno, e poi uno non finisce mai di mangiarlo, perché alla fine si stufa a rifettare il prosciutto, dopo una settimana che mangia prosciutto comincia a regalarlo in giro, invece l'Umarel no, lo tiene. No, l'Umarel lo tiene, oppure ecco, l'Umarel fa incetta di frutta, che ha amici contadini, amici Umarel, frutta e verdura, che tiene in balcone, e spesso questa frutta va male e viene comunque regalata a figli e nipoti. Ecco, questo... Già marcita con dentro il verme. Già marcita, però l'Umarel, appunto, avendo vissuto dei periodi di vacche veramente magre, e quindi... Ci fa la marmellata magari. Ma sì, sì. Ecco, poi l'Umarel non risente della crisi, in quanto comunque non ha speso oppure non ha un contratto per acquistare dei tablet o degli smartphone. Quindi non gliene importa nulla. Sì. Al massimo l'Umarel... ha un cellulare di prima generazione con cui chiamare i figli e i nipoti. Sì, di solito l'Umarel ha un cellulare che gli è stato regalato da un figlio o da un nipote. Sì. Però è la risulta di sei generazioni prima. Sì, e poi ecco, sul cellulare dell'Umarel è interessante che molti cellulari degli Umarel hanno attaccato con lo scotch sul dorso del cellulare il numero di telefono, perché l'Umarel non sa memorizzare il numero. Come è bravo a memorizzare tante altre cose, però il numero di cellulare, anche per una certa ritrosia, cioè non gli entra in... Allora, sentiamo qualche ascoltatore. Danilo, rimani, perché in questo momento... Avresti mai pensato te di diventare profeta della contemporaneità? Tu che eri, diciamo, l'illustratore del passato. Dici a me? Sì, dico a te. Sì, no, non avrei mai pensato. Io, ma sai, vivendo in una città che è piena di vecchi, è piena di Umarel, ma Umarel come categoria dell'animo, io un giorno ho avuto un'illuminazione, li ho osservati, li ho notati, gli ho dato questo nome Umarel e vedo che ho aperto un mondo a... Anche Umberto persone. Eco, adesso senza barba, è Umarel, diciamo la verità, anche lui. Però Umberto Eco, non, cioè Umarel sì, sul discorso età, però Umberto Eco è ancora diciamo quella categoria che viene chiamata i turbo giovani, che stiamo studiando io e il mio amico sociologo Ivo Germano. È un turbo giovane, poi ci spiegherai meglio. Giovane. Rosella, Rosella, buongiorno. Sì. Buongiorno. Niente, io intanto mi sono riconosciuta proprio nel ritratto che... È un'umarella lei praticamente. Sì, io faccio l'umarella, ma più per scelta che per necessità, devo confessare. Ma ha un'umarella accanto a lei oppure vive in solitudine? Io ho un umarello invalido, quindi purtroppo... È il massimo. Ecco, è proprio il top. Così anche sì. Iroso si fa anche compatire, è proprio il massimo. No, direi che poverino non è in grado di fare ciò. Però, diciamo, dica la verità, ha raggiunto lo scopero quando una donna può avere un uomo in suo totale possesso. Ecco, è la sindrome misery non deve morire. In questo momento lo ha per sé tutto. Certamente, sì. Ascolti, io volevo lanciare una... una lancia a favore di questa crisi, se vogliamo, e vedendoli il lato positivo, significa perché non approfittiamo del fatto che molti sono a casa, che molte persone non hanno lavoro fuori casa. Per farne cosa? Per curare di più quello che è la parte della vecchia economia domestica. Che quindi porta comunque a un risparmio. Poi Rosella, sai qual è il problema? L'ha detto da... Sì. Non c'è più chi insegna. Sarà il brutto. Oggi tutti ne hanno bisogno. Ma chi insegna le persone alla sana economia domestica? A rabberciare col fil di ferro la tavoletta del gabinetto che si spezza? Nessuno sa farlo. Purtroppo queste cose andrebbero fatte da chi ha comunque tempo perché è in pensione nei confronti di chi ha tempo perché non ha lavoro. E quindi potrebbe essere un modo per incontrare due generazioni con uno scopo comune. Ma questo è lo scopo segreto di Danilo Masotti, vorrebbe fare, lui vuol fare il grillo degli Umarels, ma fra un po' lo vedremo scendere in piazza. Capisco, no, comunque il discorso che volevo fare io, a parte questo, è anche un altro, cioè bisogna rieducarci, bisogna che voi media o comunque le persone che hanno contatto... Lo sto facendo, questa conosce la tradizione più umarellica di quella che sto facendo adesso. Torniamo per esempio ai legumi e ai cereali nell'alimentazione, che niente hanno da imparare dalla carne o dal pesce. Cioè mangiare fagioli invece che mangiare carne, che ci sono le proteine... Richiedono un po' più tempo di preparazione, diciamo. Però alla fine il risultato è che economicamente si risparmia e si ha esattamente, anzi, forse si risparmia anche perché avendo più scorie non si ha bisogno di certi aiuti. E ci si riscalda pure in famiglia. Grazie Rosella. Saro. Buongiorno, grazie. Melog, la realtà condivisa. 800240024. Mi rendo conto che sto svolgendo un ruolo di servizio, quindi devo fare il mio mestiere, anche se mi pesa. Però quello che leggo mi mette una profonda tristezza, ma mi fa anche sorridere, quindi l'allegria di ritrovare il sapore lontano di tempi che mai più pensavo sarebbero tornati compensa un po' la mestizia di doverlo a me realmente vivere sulla mia pelle. Mi scrivono alcuni SMS d'antologia, li manderò a Danilo Maso Masotti. Conosco persone che mettono a parte bottiglie di acqua di rubinetto perché pensano prima o poi la razioneranno. Poi, vediamo un po', il prosciutto disossato è tenuto insieme da ganci di plastica. Ecco cosa sono i pezzi di plastica che trovavano il prosciutto disossato. E poi delle cose terrificanti, bisogna andare al ristorante e farsi regalare le cose la sera, se uno mangia troppo deruba la patria, questo era un manifesto fascista. Dice, una volta ho gettato via i torsi della verdura, ora non li getto più via, sembra quasi Pinocchio. Che butta via i torzoli e le bucce della pera, poi ha ancora fame e la fatina gli fa mangiare i torzoli e le bucce della pera. Questa parte di Pinocchio mi ha ossessionato, una parte preponderante della fanciullezza. Franco. Buongiorno, sono Franco, chiamo da Ferrara. Ho 50 anni e vado da anni a fare la spesa perché mi piace e per necessità. Volevo dire che si nota anche proprio nel banco carne soprattutto che la crisi c'è tutta, da alcuni mesi sono tornate proprio le frattaglie di tutti i generi che una volta erano solo per i nostri vecchi, tipo la trippa, lo zampetto di maiale, vari altri pezzi di frattaglie. Cioè le budelle, cosa ci si fa con le budelle? Ma non lo so, si fa la famosa trippa. Beh, trippa non è un piatto raffinato, mi pare. Cioè io non ho mai mangiato trippa in vita mia perché il solo odore mi dà fastidio, ma sì, so che è una cosa che piace tanto. È una cosa casa che ho il banco del supermercato, e infatti è una cosa che si fa una volta ogni tanto, eccetera, però adesso è sempre più presente, non so se mi spiego, mentre prima c'era qualche pezzo, qualche poca roba, adesso si vede molto, si vende più, molto, si vende molto più fatta, quindi si nota anche dal banco, tornano fuori, esatto, i prodotti. Ma il cuore, per esempio, il cuore non si vedeva da tempo. Ma adesso si mangia il cuore? Certo, si mangia, certo. Certo, perché costa pochissimo e la gente... La lingua prende, anche, ma... magari. Beh, la lingua è un altro pezzo forte, però, è come lessi, la lingua, e poi costa un po' di più. E cos'è costa poco? Lo zoccolo della mucca? Cos'è che si prende? Lo stinco, quello che costa meno, la coda? Sì, coda, stinco, sono tutte cose che costano meno. Poi proprio io ho visto il ritorno, a me mi è rimasto impresso il cuore, lo zampetto, che prima c'erano, ma proprio una presenza minuscola. Non so, anche le zampe della gallina si mangiano? No, non, nei vecchi so che li mangiavano, io non le ho mai. Io mi ricordo che nella civiltà contadina si lasciavano le zampe a gallina. Assolutamente. Le lessavano, non so come. A noi le davano da bambini per giocare, ci giocavamo. Però so che qualcuno le mangiava pure. Deborah, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, io cosa faccio? Faccio una lista, prima di tutto. Poi raccolgo tutto dalla cassetta della posta, le offerte. Quando passo davanti a quei negozi dove... fanno l'offerta. C'è l'offerta, e quindi nel tempo in cui c'è l'offerta io prendo le cose in offerta, però devo stare attenta, perché io ho il pregio di ricordare tutti i prezzi. Certe volte certe offerte sono messe come offerta, però in effetti non lo sono, perché sono al prezzo della settimana prima, quindi devo stare attenta pure a quello. Quindi lei, diciamo, mi organizzo, ecco. Senta Deborah, lei passa metà della giornata a fare i conti, poi va a fare la spesa? No, perché io lavoro mezza giornata, quindi io non passo metà giornata, perché vedo in velocità, però poi vedo che certe cose addirittura in offerta non sono una reale offerta, perché prendendo una cosa di un'altra marca o appostata nel supermercato, magari sotto o sopra, costa di meno. Quindi bisogna stare attenti anche a quello. Comunque diventa un lavoro vero e proprio. Certo che diventa un lavoro fare la spesa, certo, certo. E lo si fa. E di media, scusi Deborah, quanto risparmia? Ma guardi, noi siamo in tre con un figlio di 14 anni e spendiamo circa sulle... 450-460 euro al mese. Per mangiare, cibo. Certo. Grazie. Danilo Maso Masotti, scrive un ascoltatore della nuova corrente del pensiero online, che dice: Umarels non esiste su Wikipedia, quindi non esiste in assoluto, secondo lui. Mi sembra giusto che non esista su Wikipedia, come non esiste un ebook degli Umarel per scelta stilistica. E che ci fanno gli Umarel con l'ebook? Esatto, cioè, quindi... solite polemiche da web, dai. Vabbè, sai, c'è la nuova corrente politica se non sei sul web non esisti. Io ascolto, esatto, però no, gli Umarels non ci sono su Wikipedia, quindi vabbè, se qualcuno poi li vuol mettere... Ecco, sulle telefonate che hai avuto, certo io. Stai notando, tu ti trovi in questo momento come Pinocchio nel Paese dei Balocchi, sei circondato dall'apoteosi del reperto antropologico che tu avevi scoperto. Sì, sì, sono circondato... So anche come difendermi. Ad esempio, adesso io, quando finirò questa telefonata, andrò a fare la spesa al discount, coerente con tutto quello che ho appena detto, e soprattutto so che non incontrerò degli Umarels, perché gli Umarels smettono di fare la spesa tipo intorno alle 10, 10 e mezzo. Ma non conviene andare ai mercati quando stanno per chiudere, così uno si prende a poco prezzo? No, vabbè, ma io, sai, nelle mie scelte stilistiche di risparmio, per entrare a tema della trasmissione, ho una serie di acquisti che faccio al discount. Un'altra cosa, con Monica Fabris non l'abbiamo approfondito in maniera sufficiente, sì, che è una sociologa, con te forse ci riusciamo. Il fenomeno dei tanti maschi che vanno a fare la spesa, ma cosa c'è, una sorta di pilotaggio a distanza della Sdaura che manda l'Umarella a fare la spesa? Come mai tanti uomini fanno la spesa oggi? Perché... cioè si ripropone il modello sociale della famiglia dell'Umarel. No, il modello proprio della savana, dove no cioè il modello dove il maschio va a caccia, cioè cosa che non succede nei leoni, però in generale, cioè, il maschio va a caccia, quindi la caccia è nel supermercato, quindi è andare a fare la spesa, insomma. Mi sta scrivendo un ascoltatore che mangia zampe di gallina, quindi evidentemente c'è un altro aspetto, che le donne non, vogliono in casa gli uomini, quindi li mandano fuori ad acquistare qualcosa. Così, se no la mattina dalle 6 di mattina sarebbero in giro per casa a scocciare. Sì, con sì, sì, perché l'uomo, cioè, perché l'umarel comunque, appunto, non avendo il vero umarel, non gliene frega niente del computer, per dire, oppure guarda qualche programma in televisione, però... Cioè, come riempie questa giornata? Allora viene cacciato fuori. Però mi viene da pensare, se il trend umarellico va avanti, tra un po' entrerà in crisi anche tutta l'industria della telefonia mobile, della connettività, degli smartphone, perché se diventeremo tutti umarel precoci, e lo stiamo già diventando nelle scelte quotidiane, a un certo punto taglieremo anche necessariamente, saremo tutti a guardare i manifesti o le bacheche davanti ai centri anziani. Io vedo invece di più che quando, tipo la mia generazione, saremo umarels noi, proprio anche anagraficamente, ci sarà invece una crisi dei cantieri, perché noi non interessano, e magari ci sarà più persone a casa lì con degli strumenti informatici, sociali, obsoleti, mentre invece magari i giovani faranno altre cose. Magari i giovani, ecco, in futuro invece si interesseranno ai cantieri e noi... Nel 2050 saremo col nostro iPhone 4 in mano a mandarci ancora tramite vetusti sistemi le nostre corrispondenze. Ma ti dico una cosa su di me. Ad esempio, io ho ancora un iPhone, io essendo comunque un umarella, cioè non ne faccio mistero, però io ho ancora un iPhone 3G che va benissimo, capito? Cioè, perché devo prendere quello nuovo? Quindi questa, vedi, è mentalità. Stai cominciando a umarellizzarti. Sentiamo Mariuccia. Buongiorno, ecco, io volevo agganciarmi a quello che aveva detto la signora prima sui fagioli a proposito dei cereali e a proposito dei legumi, perché in effetti le carni fanno anche molto male. Vabbè, se non tiriamo fuori con le carni fa male. Sì, tutto fa male, anche vivere fa male. Beh, dipende dai punti di vista. Sì, vabbè, adesso... Però per quanto riguarda la mia situazione, nella mia famiglia abbiamo dovuto eliminare la carne. Per soldi, però, per bisogno economico. No, perché per problemi proprio di salute, per dei grandi mal di testa, per... La carne gli dava il mal di testa, ma dove sta scritto, scusate? La carne, sì, tutte le carni, vabbè, soprattutto le carni rosse. Sì, vabbè, allora. Queste sono le fantasie. Io non è che voglio difendere la carne, ma... Allora, non è, entriamo in dei regni metafisici e superstiziosi che in realtà non è il momento di parlarne in questo momento. La carne non la compra la gente perché non ha soldi sufficienti per poter fare la spesa di carne quotidiana come avveniva una volta. Questo era il senso della trasmissione di oggi. A domani!